La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ma forse il mio primo EP omonimo, a nome Con la Pesce, ho registrato questi 5-6 brani. Lì, quando ho scritto la mia primissima canzone, che si intitola Amore Sordo, che dura 1 minuto e 20 circa, lì ho capito che forse poteva essere una buona... non so, ho avuto come una sorta di illuminazione anche su come scrivere e come arrangiare i testi, quindi sono, per esempio, sono legatissimo a quel testo e a quella canzone. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Quella di oggi, molti lo avranno riconosciuto, è la prima volta di un cantautore dal nome antico Con la Pesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo, e questa è la sua musica. Con la Pesce è un personaggio leggendario, molto familiare ai siciliani e ai calabresi. In questo caso Con la Pesce è un artista di 33 anni, cresciuto a Solarino, neppure 8.000 abitanti, in provincia di Siracusa. E Solarino, come sentirete in questa intervista, è il luogo di formazione di Con la Pesce, ma è anche il luogo da cui fuggire per poi poter tornare. Ma guardi, non è facile crescere in provincia, poi è un paesino talmente piccolo. L'unica fortuna è che è molto vicino a Siracusa, è comunque una cittadina un po' più grande, quindi io ho fatto comunque le scuole lì, anche i primi gruppi, i primi concertini ho avuto la possibilità di farli a Siracusa, che era più viva culturalmente rispetto a Solarino. Ma voi a Solarino, cioè quando eravate ragazzini, quando eravate giovani, lei è comunque molto giovane, però dico, quando eravate più piccoli, come lo vedevate, insomma, il mondo proprio da lì? Perché questa cosa mi interessa. Ma in realtà uno non ci pensa molto, soprattutto sono giovane, però nell'83, quindi comunque... Non sono un vero e proprio nativo digitale, quindi davvero il paese era una sorta di isola che ti anche un po' ti sentivi un po' protetto dal mondo. Si stava molto in strada fino all'adolescenza, così non c'erano grandi pretese o grandi sogni. Poi io dai 13-14 anni mio padre mi regalò la prima chitarra, e allora lì è stato il vero e proprio amore che mi ha portato poi anche a intraprendere altri percorsi. Lei ha imparato a suonare da solo la chitarra? No, ho studiato con un insegnante fino per 3-4 anni e poi ho continuato da solo. Ecco, e quando ha iniziato a pensare di scrivere anche musica? Gli si è aperto un mondo, immagino. Ma la musica originale praticamente quasi da subito, perché la mia primissima esperienza è stata in un gruppo strumentale. Quindi sì, all'età di 15 anni, credo, sì, 15-16 anni. E quali erano i testi di queste canzoni? Cioè, su cosa ruotavano? No, il primo era un gruppo strumentale. Quindi solo non c'erano testi, solo musica. La prima esperienza con inediti è stata quella con gli Albano Power, che era la mia prima band. Bellissimo anche il nome, sì. Siracusa. Abbiamo anche inciso un disco per la 42 Records, che è una piccola etichetta di Bologna, che tra l'altro con cui ancora collaboro. E lì è stata la prima esperienza, le prime date anche fuori la Sicilia, che non era semplicissimo. E come, cioè, di cosa parlavano i testi e poi come sono state queste prime date? È nato tutto per scherzo con gli Albano Power, perché era un periodo natalizio, volevamo fare dei regali ai nostri amici, abbiamo inciso 4 cover di canzoni di Natale. Quindi proprio le primissime cose erano delle cover in inglese, delle cover dei classici, però riarrangiati in maniera prog o elettronica, e quindi è nato un po' per scherzo il progetto. In realtà non cantavo io, ma cantava una ragazza di nome Grace. Poi a un certo punto Grace ha messo su famiglia, quindi mi hanno costretto a cantare. Non nasco da... canto un po' quasi per sbaglio, ecco. Mi hanno forzato. Però questo tema anche un po' della ricerca che arriva, cioè che c'è un percorso che in molti casi è casuale, no? Perché questo è quello che sta un po' emergendo nel corso di questa intervista, non è proprio così, nel senso che poi quando uno ascolta i suoi dischi, i suoi lavori, si capisce che invece c'è un grosso lavoro di ricerca vera, di studio. Sì. Infatti parlo del periodo adolescenziale, così inizia. Poi ovviamente quando uno poi ho fatto sì un periodo di scrittura in italiano, però buttando decine e decine di brani prima di trovare una mia piccola formula, un piccolo equilibrio fra semantico musicale, cioè fra il significato delle parole e la musica. Insomma, ho fatto una lunga ricerca su questa, sul modo di scrivere, sul come scrivere le canzoni. Ecco, le volevo chiedere questo. A un certo punto lei ha ricevuto un grandissimo riconoscimento, che è il premio Tenco. A me è capitato di sentire molti artisti che dopo aver ricevuto questo premio si sono spaventati, insomma, anche di questo peso ricevuto. Ecco, volevo chiederle com'è stato per lei avere questo riconoscimento così importante. È stato inaspettato, non mi aspettavo assolutamente di ricevere il premio come migliore esordio di 3 anni fa, credo, sì. È stato uno shock, insomma, prendere poi coscienza. Sì, si sente un po' il peso, effettivamente, un po' di responsabilità addosso. Infatti per questo poi io Ego Mostro l'ho inciso a 3 anni di distanza, anche forse un po' per la paura di sbagliare. Comunque volevo fare un disco bello, perché un meraviglioso declino, che è stato il mio primo lavoro, ha avuto molto successo tra virgolette nel circuito indipendente, e quindi poi lavoro molto ai pezzi, essendo anche un produttore artistico. Quindi ho impiegato davvero quasi 3 anni per finire di scrivere, arrangiare e produrre Ego Mostro, che è il mio nuovo lavoro. Ora ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. La prima volta. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, ma c'è solo un piccolo problema, non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma, ma di che parla? Ah sì, è vero, c'hai ragione Filippo, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto, e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto, con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ben ritrovati, dunque quella di oggi è una storia che parla di un'intera generazione di ragazzi trentenni che vanno via dal sud, di un mondo dove tutto resta invariato nel bene e nel male, ma quella di oggi è anche la puntata che parla di un ragazzo che ha scelto come nome d'arte Colapesce, il leggendario pescatore che si immerge negli abissi marini, e in questo caso il viaggio è nella ricerca di musica e parole, un percorso che viene bene a Colapesce, già amato nei suoi esordi, e che oggi conferma il suo talento col suo nuovo album Ego Mostro. È una parte in realtà di Ego Mostro, è stata scritta a Milano, però in realtà poi sono forse pezzi più siciliani. Cioè, stare lontano acutizza, sì, il bisogno di... Sì, poi c'è un rapporto viscerale con la mia terra, probabilmente come tutti i siciliani o gli isolani in generale. Ego Mostro è nato praticamente a Milano, però mi sta dicendo, forse perché Milano in qualche modo è una delle città, la metropoli italiana che meglio di tutte racconta questa solitudine egocentrica, no? Questo essere sempre connessi, sempre social, sempre... Sì, è vero, è una città che paradossalmente poi ti porta alla solitudine, pur essendo una metropoli. In realtà però gran parte del disco l'ho scritto giù in Sicilia. Solo le ultime canzoni sono state scritte qui a Milano l'anno scorso, e poi le abbiamo incise fra Torino, Bologna, e tutte invece le voci e gran parte delle chitarre invece le ho fatte a Ognina, che è una scogliera a Siracusa, vicino a Siracusa, dove sono praticamente cresciuto, perché ho una casetta lì a mare. Ho passato tutte le mie la mia infanzia e la mia adolescenza l'ho passata lì, su quegli scogli. Ma e com'è la sua famiglia? Cioè, lei è figlio unico, ha fratelli? Ho un fratello più grande che ha vissuto all'estero per tanti anni, adesso però è rientrato in Italia, ha vissuto a Bogotà, in Colombia. I miei sono separati, ma vivono entrambi a... Mio papà a Siracusa e mia madre a Solarino. Sì. Poi i miei si sono anche risposati, hanno avuto un'altra famiglia. Mio papà ha altri due bambini, due figli più piccoli. È stata comunque un'infanzia serena, pur avendo appunto i genitori separati, perché avevo dei nonni splendidi che hanno fatto da cuscinetto a questo piccolo dramma della separazione. Sì. Mio nonno Giuseppe, con cui sono cresciuto, insomma, era una persona veramente speciale. C'è ancora suo nonno Giuseppe? No, è morto da qualche anno. Volevo dirle questa cosa, che io non la conoscevo molto bene prima di preparare questa intervista, e che secondo me Ego Mostro è davvero bello, è un album di grandissimo valore, cioè non solo sia nei testi che nella musica. Ecco, le volevo proprio chiedere come ha fatto, cioè chi ha scelto, cioè ha scelto lei le persone con cui ha collaborato a quest'album, che cosa voleva tirar fuori, perché ci sono molte influenze. Sì, ho scelto io collaboratori, ma principalmente sono dei miei amici. Il bassista, per esempio, suona con me dagli Albano Power, da praticamente Sì. da 15 anni. Ma perché Albano Power? Ah, ma non lo so, eravamo ragazzi. Vabbè. Quindi ho collaborato comunque con persone che stimo artisticamente, ma soprattutto sono anche dei miei amici, quindi è stato più semplice lavorare al disco con queste premesse, essendo anche in parte il produttore artistico, quindi è stata fatta una lunga ricerca anche sonora su gruppi, hai detto bene, appunto degli anni, fine anni 70, primi 80, quando ancora non c'era. Un po' a cavallo fra le prime cose elettroniche, no? Penso ai primi lavori di Battiato, oppure al Battisti di Una giornata uggiosa, oppure anche i Talking Heads, che sono stati fra i nomi, insomma, a cui mi sono ispirato forse di più. Sì, rispetto a Un meraviglioso declino, che invece era un disco più acustico, o comunque più classico, più filoamericano per certi versi, invece in Ego Mostro c'è più, forse anche più influenza mediterranea a livello di sonorità, di suggestioni sia armoniche che anche testuali, ed è un disco più autobiografico rispetto al mio primo lavoro, più intimo nei testi, però in realtà poi la musica in realtà è più, forse più fruibile per certi, più pop tra virgolette, nel senso alto del termine. No, ci sono, dico, varie influenze che vanno da, ci sono parecchi synth, ci sono i fiati veri, misti ai fiati finti, dei violini, gli strumenti degli anni 20 come il marxophone, oppure delle batterie acustiche miste all'elettronica, insomma c'è una ricerca sonora molto, molto curata che ci ha tenuti in studio per parecchi mesi. Una sorta di concept album poi alla fine che gira attorno a questo contenitore vuoto che è forse un neologismo che è Ego Mostro, no? Buona, un neologismo. Che viene ormai utilizzato, insomma, abbastanza con sì. scioltezza da molti. Senta, lei ha citato dei cantautori italiani fine anni 70-80, e ho letto anche che lei in un'intervista a Repubblica di qualche tempo fa, ha proprio stigmatizzato le differenze, no, tra i cantautori di oggi, lei è un cantautore, e proprio i cantautori degli anni 70, cioè soprattutto in quell'intervista diceva che è cambiato l'impegno sociale. Sì, in realtà la società però è filtrata dai miei occhi, ecco, non è un giudizio diretto alla società. Cioè c'è meno impegno politico, diciamo, in questo senso, forse, Sul o... disco sicuramente sì, rispetto anche al mio precedente lavoro in cui c'erano dei brani che erano rivolti più all'esterno, invece Ego Mostro è più una finestra rivolta verso l'interno, ecco. È più personale come disco, a parte Maledetti Italiani, che forse è il pezzo poi più è stato il primo singolo di Ego Mostro, che è un pezzo più sociale, poi per il resto in realtà è molto intimo il disco, però utilizzo spesso, ecco, la società anche per parlare poi di dinamiche personali. Un'altra domanda che volevo fare è relativa a casa sua, cioè lei quando torna, perché per esempio io ho intervistato i Verdena che abitano in un paese del Bergamasco e loro lì sono a casa, cioè nessuno li tratta come i Verdena, sono i ragazzi che suonano, sono parte. Ecco, per lei è la stessa cosa, nel senso lei a Solarino non è Colapesce, cioè o invece sì, è diventato una star, cioè volevo capire anche questa No, no, parte, no, cioè... no, sono Lorenzo. Lorenzo. Anzi, ancora mi sbaglio, a volte mi chiamano Francesco, è il nome di mio fratello, perché siamo ovviamente identici. E E quindi questa cosa le fa bene perché la tiene in piedi? sì, ti tiene un po' al riparo. Prima di chiudere questa intervista, è questa frase che ha usato per chiudere l'album: con un leggero malessere riconquistiamo la bellezza. Insomma, È una citazione, in realtà c'è un'opera di Pinter sì. che si intitola appunto Leggero Malessere. Sì. No, e volevo sapere, cioè, se secondo lei questo è un po' il prezzo che dobbiamo pagare ogni giorno, questo leggero malessere per riuscire ad Sì, arrivare. Esatto. Però comunque l'outro, che poi è l'ultimo brano del disco, è praticamente identico all'intro, che è la prima canzone di Ego Mostro. L'unica differenza è che è come se fosse un vero e proprio viaggio. Nell'intro chiude con un accordo minore e quindi poi parte tutto Ego Mostro, il concept che è l'album stesso, e chiude invece con un leggero malessere, Conquistiamo la bellezza, con un accordo maggiore, quindi come con una speranza. Sì, bisogna passare comunque dal leggero malessere. Sì, dal leggero malessere. Non c'è che fare. Non abbiamo scampo. Sono sempre l'ultimo a saper le cose. È scoppiata la crisi mondiale. Io ero in cucina, mangiavo una mela. Congratulazioni a voi, ma che bel bambino. La prima volta termina qui. Volevo dirvi grazie per come ci seguite. I nostri contatti sono sulla pagina di Radio 24, cercate La prima volta. Per ora è tutto, buona domenica. Vi lascio con l'ascolto di questa canzone di Colapesce dal titolo Maledetti italiani. Grazie ancora, a domenica prossima. Ciao da Cristina Carpinelli. Ci sono gli sconti da Zara. Questa volta paghi tu, caro le stufante. Ti volevi imbucare alla festa. La famiglia che stimi non ti riconosce. Sempre l'ultimo e non mi dispiace. A che serve arrivare per tempo se alla fine chi ha vinto ha perso lo stesso? We'll be right back.